Capitolo 65. Pigmalione e Galatea. Pigmalione, figlio di Belo, si innamorò di Afrodite e, non potendo giacersi con lei, fece una statua d'avorio a somiglianza della dea e la pose nel suo letto, implorandone la pietà. Entrata nel simulacro, Afrodite gli diede vita e lo trasformò in Galatea, che generò a Pigmalione, Pafo e Metarme. Pafo, successore di Pigmalione, fu il padre di Cinira, che fondò a Cipro la città di Pafo e vi costruì il famoso tempio di Afrodite. Pigmalione, che sposò la grande sacerdotessa di Afrodite a Pafo, pare tenesse nel suo letto il simulacro della dea bianca allo scopo di assicurarsi il trono di Cipro. E se è vero che gli succedette il figlio natogli dalla sacerdotessa, egli fu il primo re che riuscì a imporre la successione patrilineare ai ciprioti, ma è più probabile che allo scadere dei suoi 8 anni di regno egli rifiutasse di cedere il simulacro della dea e riuscisse a regnare per altri 8 anni sposando un'altra sacerdotessa di Afrodite, che era in teoria sua figlia in quanto erede al trono, la quale fu chiamata Metarme, cambiamento, per indicare appunto questa innovazione.